Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti, 7:35 minuti, cari ascoltatori. Iniziamo subito con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10 di questa mattina. Un'occhiata tra poco alle prime pagine dei giornali di oggi con una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8, quindi cominciamo subito, vai. Allora, cari ascoltatori, avrete sentito anche voi le notizie che ci riguardano, che riguardano le indagini sul Sole 24 Ore. Io stamattina arrivando mi sono guardato intorno e guardavo un po' se ci saranno ancora gli ispettori della procura, mi sono messo di lato, ho detto non sia mai che mi scatta un controllo, documenti, e uno si fa trovare impreparato, mancano i documenti, si fa anche una brutta figura e non si sa mai, ci mettono un attimo a farti una segnalazione. Vabbè, dai, scherzi a parte, le indagini sono indagini importanti, naturalmente il gruppo, l'azionista, il management del Sole 24 Ore, i giornalisti tutti esprimono massima fiducia nel lavoro della magistratura. Del resto questa indagine, questo però lo voglio dire chiaramente, perché qualche chiarimento bisogna farlo, non riguarda direttamente il ruolo del direttore Roberto Napoletano indagato, però non riguarda il suo ruolo come direttore, tantomeno per quanto riguarda noi di Radio 24. Andiamo avanti a fare il nostro lavoro tranquillamente, come è sempre stato, nel massimo della trasparenza, dell'onestà intellettuale. Questo personalmente, almeno io lo dico per me, lo garantisco per quanto mi riguarda. Andiamo avanti con passione, anche se forse adesso passione non si può più dire perché abbiamo cambiato il claim, libera la voglia di fare, e quindi però la passione c'è sempre. Però abbiamo deciso una cosa, questo sì, ve lo dico, di non noi giornalisti, insomma l'assemblea dei giornalisti di Radio 24 ha deciso di fare lo sciopero delle firme, non mettiamo le nostre firme al termine dei servizi del giornale radio e anche nelle presentazioni, nelle letture, nelle conduzioni varie, perché chiediamo comunque all'azionista e all'azienda, al management, un segnale di discontinuità, un netto cambiamento, perché non vogliamo dare al nostro pubblico, che siete voi, agli ascoltatori, ai lettori, il dubbio che questo gruppo, questa radio in particolare, sia anche solo un granello di sabbia, un capello in meno che trasparente, lo ripeto, intellettualmente onesto, al servizio, insomma, fondamentalmente del suo pubblico. Quindi stamattina non mi sentirete dire buongiorno da Alessio Maurizi, ops, l'ho già detto, non è dovuto dirlo, vabbè. Non me lo sentirete più dire, silenzio, basta, sciopero delle firme. Si parla, ma si parla d'altro. E allora cominciamo coi giornali di oggi. Ai giornali che sono dedicati coi titoli principali all'apertura della mozione renziana al congresso del Lingotto. Renzi che riparte, si ricandida, sembra di essere tornati con l'orologio indietro di 4 anni, si ricandida alla segreteria del PD. Poi c'è la vicenda di Lodi, naturalmente, con l'attentata rapina, il ristoratore che scende col fucile, spara e uccide uno dei rapinatori, e molti del paese, a cominciare dal sindaco, che si schierano con lui. La magistratura sta indagando per capire se c'è, come sempre in questi casi, questo eccesso di legittima difesa, oppure se lui ha agito proprio per legittima difesa, per come sono le leggi oggi in Italia. Poi c'è ancora un po' di sfondo europeo alla vigilia del vertice di Roma, da cui si dice che dovrebbe ripartire un'Europa a più velocità, due velocità, cioè sostanzialmente un'Europa nella quale alcuni paesi decidono di accelerare su alcune forme di integrazione, diciamo lasciando gli altri un po' più a se stessi. Sono ipotesi previste dai trattati, ma che non trovano tutti d'accordo. Anzi, ieri la Polonia ha aperto un fronte di critica dicendo: no, noi non ci staremo mai a questa cosa qua. E cominciamo coi titoli, vediamo come la mettono giù il Corriere della Sera. La sfida di Renzi, basta paure, il PD non è la casa dei reduci ma degli eredi, sì al segretario premier. La Stampa scrive: la sfida di Renzi, quindi la stessa espressione, basta aver paura, è proprio un titolo fotocopio quello della Stampa rispetto al Corriere. Repubblica scrive: Renzi riparte dal Lingotto, no alla sinistra della paura. Altri giornali non se lo filano nemmeno la notizia, il giornale di destra, di centrodestra, sul giornale non c'è proprio la notizia. In prima pagina sul Libero c'è Renzi riscende in campo, un titoletto: il problema del PD è che cosa fare, non chi comanda. Anche questo però è una giusta sollecitazione. Poi c'è il Fatto Quotidiano che scrive: Renzi come Berlusconi usa gli indagati, suicidi contro i magistrati vivi. Il riferimento è all'invito al congresso del Lingotto di Tommaso Nunes, figlio di un assessore napoletano che si tolse la vita, era indagato, i magistrati parlarono, cioè la Stampa parlò di questa inchiesta della magistratura e lui non resse il peso e si tolse la vita. Capite il tipo di riferimento che sottolinea molto nettamente il Fatto Quotidiano. Direi però che, come spesso capita, il Manifesto fa il titolo più bello in assoluto, non c'è dubbio. Scrive il Manifesto: Lingotto, ed è Renzi che con la col suo faccione campeggia un po' cotto, perché questo è inutile insomma negarlo. Anche i più grandi estimatori di Renzi, in un momento del genere, con le indagini che riguardano il padre, con il partito che si sta dissolvendo al sole, con il governo Gentiloni che sta andando avanti a stento, rilanciare 4 anni dopo la stessa candidatura, un film già visto, insomma non è un bel momento per Renzi, assolutamente no. Lingotto, scrive in maniera impietosa il Manifesto. Vediamo all'interno dei giornali qualche piccolo sprazzo di approfondimento. Il PD non è il partito dei reduci ma degli eredi. 10 anni dopo Veltroni al Lingotto, Matteo Renzi rivendica una successione in linea diretta dal primo segretario Dem e nel contempo marca la differenza con chi oggi se n'è andato. Non si può vivere di nostalgie e di rimpianti, grida l'ex segretario alla platea torinese riunita sotto lo slogan tornare a casa per ripartire insieme. Insomma, soliti slogan renziani, però i giornali sottolineano, forse perché sono di parte, a questo punto erano tutti renziani, adesso sono tutti antirenziani, ma o forse perché è la cronaca, bisognava esserci al Lingotto per vedere com'è andata. È una cronaca di mestizia, di facce che suonano più come riunione di reduci che non come riunione di una corrente di partito, di un partito che riparte, che parte e che lancia messaggi soprattutto al paese. Ecco, questo non è uscito per ora, invece è necessario che arrivino questi messaggi, altrimenti a che serve la politica? Però insomma, le uniche cose che sono uscite: il lancio di una piattaforma internet chiamata Bob nel ricordo di Kennedy, per non lasciare la dimensione del web a chi fa business con l'ideale degli altri, un riferimento neanche troppo velatamente al Movimento 5 Stelle, alla piattaforma di Beppe Grillo, accusata, sapete, ci sono le sponsorizzazioni sulla piattaforma della Casa Leggi Associati, e quindi fare business sulle idee, sulle ideali del movimento, sul blog del movimento. Sapete, Grillo ha risposto più volte a questo dicendo: quegli introiti servono per mandare avanti la piattaforma e quindi sono reinvestiti. Poco altro, la proposta di formare un gruppo di giovani nuovi politici con chiamatela pure una frattocchia 2.0. Poi il richiamo al patriottismo che, dice Renzi, va riportato nel campo della sinistra. Poi ancora, velocemente, che non c'è molto a dire la verità, scrive invece sul Repubblica Francesco Merlo: la verità è che il chiodo, ricordate il chiodo, la giaccone di pelle, la giacca di pelle in pieno stile Fonsi, piano giovanilistico di Renzi qualche tempo fa, il chiodo Maria De Filippiano, ormai solo ideologico, riemerge più vero della gobba gramsciana posticcia, quando dice dobbiamo recuperare la parola compagno, che deriva dal latino cumpanis. Vi aiuto a capire, perché non è facile anche dai giornali, ormai siamo entrati in una specie di segmento letterario, no? La storia del PD, le vicende del PD. A qualcuno interessano, a molti no. Il PD è l'azionista di maggioranza del governo, quindi un'occhiata bisogna dargliela. Ma insomma, Francesco Merlo dice che nonostante il riferimento a Gramsci che Renzi ha fatto e il riferimento alla parola compagni che Renzi ha rilanciato, cumpanis, citando il latino, dice il chiodo Maria De Filippiano riemerge alle spalle di tutto questo, cioè il solito Renzi che cerca di accalappiare un po' di consensi a sinistra, ma è il solito Renzi con i soliti slogan, ripartiamo, ricominciamo, basta con la paura, eccetera eccetera. Un ultimo velocissimo riferimento a questa vicenda che riguarda la questione di Nunes, dicevamo, cioè la scelta di invitare il figlio di questo assessore suicida a Napoli, in polemica anche forse con una certa magistratura, con un'inchiesta, così la interpreta il Fatto Quotidiano, che dice appunto Renzi come Berlusconi usa gli indagati suicidi contro i magistrati vivi. Di che si tratta? Il Lingotto è un bunker, scrive D'Esposito, sul Fatto, un fortino ultragarantista, ma non è una convention di Forza Italia, è l'incipit della campagna congressuale di Matteo Renzi, il grande sconfitto del 4 dicembre, la torsione anti-PM del PD renziano origina ovviamente dallo scandalo Consip che coinvolge Babbo Tiziano e altri petali preziosi del Giglio Magico, così in nome di questo sentimento ormai dilagante oggi a Torino ci sarà Tommaso Nunes, figlio di Giorgio, che si ammazzò a Napoli, era un assessore comunale del PD, è il figlio stesso a spiegare cosa succede, il padre era impegnato, partecipava alle manifestazioni, andava ai blocchi degli operai, eccetera, eccetera, però a un certo punto risultò indagato e non resse al peso di questa vicenda, si suicidò. Purtroppo, scrive il figlio, le condanne spesso arrivano dalle prime pagine dei giornali senza alcuna garanzia per gli indagati. Il mondo dei mass media deve interrogarsi sulla responsabilità da mantenere a tutela della dignità delle persone e del rispetto scrupoloso della verità. Verissimo, giustissimo, questo assolutamente ci metto la firma. Quello che i giornali oggi sottolineano è che la scelta da parte di Renzi di invitare proprio questa persona è una scelta, diciamo, in chiave anti-PM, proprio nel momento nel quale il padre e altri suoi stretti collaboratori sono indagati dalla magistratura. Traffico, torniamo tra un attimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Oggi il giornale ha un prezzo nuovo perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. Molliamo Renzi e il Lingotto per andare sulla seconda notizia principale cui si occupa il giornale di oggi. Ristoratore uccide un ladro, il paese con lui, giusto difendersi, Repubblica. I commenti, Carlo Bonini, il limite al Far West, poi ancora spara e uccide, scrive La Stampa, il ladro, siamo tutti con lui. Indagato il ristoratore, difeso dai vicini, il parroco l'ha fatto per disperazione. E se anche il parroco ha questo tipo di posizione, capite bene che c'è qualcosa forse che sta anche cambiando nella percezione di tutti, perché anni fa sicuramente ci sarebbe stato minore solidarietà nei confronti di un gesto del genere. Vado a leggervi perché qual è il punto, insomma, no? Qui bisogna, è importante anche insomma, prima di esprimere un'opinione, credo, lo dico personalmente per quello che penso io, conoscere un po' i fatti, no? Anche i particolari fanno la differenza. Certo, si tratta comunque di una persona che ha subito un tentativo di rapina, ma ci sono dei dubbi che vengono, come anche in altri casi, no? Avanzati, il fatto che i familiari sembra che avessero detto al titolare del ristorante non prendere il fucile, non farlo, perché la situazione non appariva evidentemente grave, la refurtiva era un sacco di sigarette, non erano armati i rapinatori e il rapinatore ucciso è stato colpito alle spalle, ma al momento diciamo le risultanze delle indagini parlano di un colpo ravvicinato con scrive Repubblica il conseguente sillogismo tecnico che quanto più è ravvicinato tanto più si va verso l'ipotesi della legittima difesa. Mario Cattaneo dice che c'è stata una colluttazione nel cortile della sua tabaccheria, gli hanno preso la canna del fucile in mano e poi è partito il colpo. Loro vivono al primo piano, hanno sentito i rumori, l'allarme scattare, sono scesi e è successo quello che è successo. È stato accidentale, ha detto alla polizia e agli inquirenti. Mi stavano tirando la canna, è partito il colpo, non volevo. Fucile regolarmente denunciato, i rapinatori scappano, il ferito scavalca anche lui la recinzione e se ne va, lasciano il refurtivo, un sacco con alcune stecche di sigarette, poi 200 metri più tardi gli altri scappano e uno di loro muore. Non c'è niente sicuramente di cui rallegrarsi né in un senso né nell'altro, questo è l'unica cosa che mi sento di dire, perché comunque una tentata rapina, la morte di una persona, un uomo che adesso ha sulla coscienza il fatto di avere ucciso un'altra persona, è comunque una bruttissima storia. Però naturalmente qualcuno adesso riapre la questione delle leggi italiane che in questo caso rischiano di incriminare Mario Cattaneo, con il paese che sta dalla sua parte e tutti che dicono era esasperato. Certo, io personalmente non so come reagirei se qualcuno mi entrasse in casa, non lo so per davvero, quindi non me la sento di dire niente nei confronti di quest'uomo. Scrive Vittorio Feltri sul Libero: con chi ce la vogliamo prendere? Noi non facciamo il tifo per i grassatori, siamo dalla parte delle loro vittime, pensiamo che se esse reagiscono alle sopraffazioni non hanno mai torto, premono il grilletto e cosa dovrebbero fare? Aprire un dibattito con i malfattori, offrire loro un caffè, un grappino, un Campari Soda? Se a perire è uno dei ladri è il minore dei mali. Esaurita anche questa vicenda, andiamo sull'altro argomento di oggi che riguarda l'Europa, il vertice di ieri a Bruxelles, alla vigilia del vertice a Roma, da cui si è detto all'anniversario della fondazione dei trattati, il Trattato di Roma, 60 anni dopo, si vuole in qualche modo rilanciarla questa Europa in un momento di grave difficoltà, se non di crisi aperta, però le cose non volgono al bello. Scrive La Stampa: i paesi dell'est fanno blocco contro l'unione a due velocità. L'unione a due velocità è la nuova trovata di Angela Merkel, ma anche di Francia e Italia in questo momento, Spagna probabilmente anche, per favorire una integrazione da parte dei paesi che nei settori in che lo vogliono, ieri Gentiloni lo ha ricordato, la difesa, la questione dei migranti, ma anche la crescita economica, l'Europa sociale, quindi l'attenzione per i più deboli, da parte dei paesi che abbiano intenzione di portare avanti questa cooperazione, questa integrazione a tappe forzate, lasciando sullo sfondo i paesi che non intendono farlo. È previsto dai trattati, ma ieri la premier polacca, che ha un nome impronunciabile, Beate Zildlo, credo, però sicuramente ho sbagliato, perdonatemi, non ho sentito altri colleghi pronunciare correttamente il nome, ha detto chiaramente che i paesi di Visegrad, che sono quattro paesi, adesso non mi ricordo a memoria, ma insomma Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, sono contrari a questo tipo di integrazione, diciamo, a due velocità, e quindi vedremo quale potrà essere la sintesi successiva. Vi voglio solo lasciare con una segnalazione velocissima della Stampa: i nostri medici eroi che non si fermano mai. A Parma una pneumologa lavora per 24 ore consecutive, ecco come vivono gli stacanovisti della sanità, non ci sono solo furbetti del quartierino, del cartellino, insomma scandali nella sanità, ma un'inchiesta dell'ASL di Napoli fa vedere come tanti medici lavorano, fanno straordinari per cercare di portare avanti il servizio, e quindi noi li ringraziamo e con questo proviamo anche a riconciliarci con le cattive notizie. Giornale Radio, come si può fare, ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that. sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. So don't stop, stop. Under the lights when everything goes. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good. 8:17 minuti, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Si può fare, eccoci qua, ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Carlo, Milano-Monterosa? Milano-Monterosa molto bello, c'è un sole bellissimo, sì. Quindi splende il sole sulla sede del sole. Ispettori ne hai visti? No, ecco, volevo sapere se si poteva fare dell'ironia. Di finanza, volevo nulla. Sapere se si poteva fare dell'ironia, non vedi, sono molto imballato, infatti in sì. realtà stavo districando tutti questi fili del mouse, delle cuffie, è un sabotaggio della tastiera del computer, appunto, e mi chiedevo se ci avevano messo le mani quelli della guardia di finanza, che forse avevano fatto del casino. No, io sono stamattina contento, quindi si può tranquillamente, l'ho insomma. Detto, sono arrivato un po' preoccupato, defilato, perché dico magari c'è qualche ispettore della guardia di finanza che mi dice documenti, esatto, documenti. E uno si trova sprovvisto, fa anche una brutta figura, non è il caso in questo momento. Anche si scherza, perché, si scherza. Io non conosco esattamente il regolamento, me lo spiegavi prima mentre sì. facevamo colazione sul fatto dei giornalisti che non firmano, dello sciopero. Allora facciamo chiarezza, anche perché facciamo ci sono chiarezza, che mi sembra corretto, un paio di ascoltatori, perché io, se vuoi, dico un altro nome, hanno insomma, sentito, dico che mi chiamo in un altro modo, la rassegna stampa, che dicono intanto Paola, esprimo solidarietà alla redazione dei giornalisti, grazie. Clotilde, stessa cosa, esprimo solidarietà al gruppo Radio 24, solidarietà, vi conosco, eccetera eccetera. Poi un'altra che dice, ma come un bravo giornalista come lei non ha fatto cenno ai problemi del Sole 24 Ore? Sì, cara Paola, invece sì, perché ho esordito proprio la rassegna stampa, ho letto la notizia, e quindi la questione è questa: sciopero dei giornalisti sulle 24 ore, loro ad oltranza chiedono un segno di discontinuità all'azionista e all'editore. Noi di Radio 24 abbiamo lo stesso direttore, siamo stati meno toccati probabilmente dal danno di immagine di questa inchiesta. È una questione di immagine, comunque anche noi non vogliamo dare ai nostri ascoltatori, al pubblico che ci segue, il sospetto, anche minimo, ho detto un granello di polvere, un capello meno che non trasparenti e intellettualmente onesti, al servizio del pubblico sempre. Ecco perché oggi non possiamo dire i nostri nomi, perché c'è lo sciopero delle firme. Perfetto, io non sono un giornalista, ma comunque tu non sei Carlo Gabardini. No, e no, io no, non sono. Non lo dico, ci mancherebbe altro, dico solo Carlo, così. Allora, a proposito comunque danno l'immagine c'è, perché c'è mia mamma sì. praticamente quotidianamente ti chiama. Ieri sì, era cosa sta succedendo al sole, perché sapendo che venivo qui era molto preoccupata, soprattutto che non ho ancora fatto nemmeno la fattura di dicembre. A proposito di indagini, parliamo di Berlusconi. No, come? No, perché Berlusconi è in attesa di un possibile ritorno, di poter essere anche ricandidabile, insomma, una piena riabilitazione dal punto di vista della candidabilità. Ma al di là di questa settimana si è fatto fotografare da McDonald's come uno sbarbino qualunque. E allora è un chiaro, inequivocabile tentativo di rifarsi un'immagine, tornare giovane, ragazzino al McDonald's di Segrate, pare esatto. che abbia ordinato solo una spremuta, tra l'altro sì. quindi comunque anche vegano, direi. Anche vegano. Allora noi vi chiediamo, cari ascoltatori, quella volta che cosa avete fatto di tutto per sembrare più giovani, per tornare più giovani, il capello bianco staccato, tagliato. Dal gesto che stavi facendo pensavo disegnato con l'uniposca nero, nel esatto, senso di ripassarlo sopra. Questa è Claudia Schiattone, ormai l'ho detto, basta, è andata. L'hai detto tu, Claudia, l'hai detto. La classica, la giacca di pelle a 50 anni e la moto. Oh, io la giacca di pelle non la mettevo nemmeno da giovane. Io ho la felpa col cappuccio, però qualcuno può pensare che sia per sembrare più giovane, è semplicemente che io ho solo la felpa col cappuccio. Ne ho quattro, sono tutte blu, è uguale. Però è così. Paolo Corleone, per esempio, corre pazzamente, fa running, anche lui è uno di quelli che si è messo a correre, non lo so se per sembrare più giovane, ma lui è giovane, siamo giovani. Il running comunque lo fanno dei ragazzini ai sì. vecchietti, quindi purtroppo, caro regista, esatto. Allora, esatto. Cari ascoltatori, all'800 24 0024, tutti i vostri tentativi per sembrare più giovani. Bye. Allora, Eclissi di periferia di Max Gazzè è perfetto, preciso, preciso per la prima bella notizia di questa settimana. La firma di un accordo che fa partire 24 cantieri di riqualifica, progetti per riqualifica delle periferie italiane. Se ne parla tanto in campagna elettorale, sempre poi spariscono dall'agenda, dai radar, e nulla più accade. E invece qua ci sono anche parecchi, parecchi soldi, parecchi fondi stanziati. Sta accadendo, si può fare, trovare soldi per ristrutturare queste periferie con parchi, però piste ciclabili, non con i soliti palazzoni, i soliti cattedrali nel deserto, i soliti grattacieli, aree gioco, centri per i servizi. Vedremo, noi vogliamo indagare, sarà vero? E ne parliamo con il presidente dell'ANCI, che è sindaco di Bari, Antonio De Caro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben ritrovato. Buongiorno. Siamo felici di questa notizia, però vogliamo anche vedere un po' di cosa si sostanzia. Ci può, diciamo così, in linea generale, tratteggiare intanto alcuni, se non tutti, sono molti, di questi progetti. Di che si tratta, De Caro? Renzo Piano l'ha definita una grande operazione di rammendo, nel senso che interveniamo sulle nostre periferie. Interveniamo con delle azioni materiali e delle azioni immateriali. Quelli materiali sono operazioni di rigenerazione urbana, di ricucitura dal punto di vista urbanistico, di realizzazioni di spazi per socializzare. Contemporaneamente però ci sono anche delle azioni di tipo immateriale, la possibilità di valorizzare talenti, competenze, soprattutto dei giovani nelle periferie che sono pieni di vitalità, e attivare delle start-up su attività economiche come piccole attività commerciali, piccole attività artigianali. Ecco, animare anche le periferie, animare gli spazi per la socializzazione. Sono 500 milioni di euro per ora per 24 progetti, come avete detto prima, è la partenza, perché tra qualche giorno avremo un altro 1,6 miliardi per un totale di 2,1 miliardi, che sono i fondi messi a disposizione dallo Stato. Però questi fondi generano altri fondi privati o cofinanziamenti pubblici per un totale di 3,9 miliardi. Ecco, però De Caro, io le chiedo quasi un favore personale, no? O a nome di tutti quelli che ci stanno ascoltando, queste cifre che noi spesso sentiamo che vengono anche sommate, no? I soldi del governo più quelli che arrivano dai fondi di qua, di là, già, i fondi privati eccetera eccetera, ci fa un po' da garante, cioè si mette lì a verificare? Lei in fondo non sta al governo, fa un altro lavoro, fa il sindaco, questi soldi li deve ricevere, lei come tutti i sindaci, quindi che stia lì un po' a controllare che queste cifre si... È quello, è il mio mestiere, ecco, più che il sindacato dei sindaci, l'ANCI è... Mi raccomando, perché delle comunità, dei cittadini, quindi credo che sia importante. Questi primi 500 milioni sono disponibili perché l'altro giorno abbiamo proprio firmato le convenzioni, quindi possiamo iniziare con le progettazioni esecutive. Dell'altro 1,6 miliardi, 800 milioni sono stati approvati con una delibera CIPE qualche giorno fa, e tra qualche giorno ci sarà un DPCM per gli altri 800 milioni. Così i progetti saranno 120. Il governo aveva preso un impegno a ottobre dell'anno scorso, il governo Renzi, mantenuto dal governo Gentiloni, l'impegno che era quello di finanziare tutti i progetti che erano stati presentati, non più i 500 milioni e quindi una graduatoria, ma tutti i progetti presentati sono stati finanziati, proprio perché l'ANCI ha chiesto di finanziare le periferie. Ecco, però lei diceva, entrava un po' nel merito, no? Dalle vele di Scampia, l'abbattimento delle vele di Scampia, progetto del sindaco De Magistris, il progetto, diciamo, che anche evoca dal punto di vista simbolico delle periferie italiane. Assolutamente, ma c'è quello, c'è il quartiere San Paolo, credo, a Bari, ci sono tanti quartieri a Torino, a Roma, eccetera. Però è come dicevo io, cioè in parte come diceva anche lei, abbattere edifici vecchi, collegare meglio le periferie al centro, creare il verde, fare le piste ciclabili, oppure ancora rischiamo di rivedere dei palazzoni creati nel nulla, delle strade che raddoppiano altre strade inutili. Sono operazioni di riqualificazione. Le nostre periferie sono, diciamo, lontane dal punto di vista fisico rispetto ai centri urbanizzati, anche se ci sono alcune periferie che non sono lontane, ma sono vicine al centro cittadino, ma sono lo stesso in situazioni di degrado, ma normalmente sono dei quartieri di edilizia economica e popolare che sono nati proprio per dare una risposta alle esigenze abitative dell'epoca. Il problema è che le abbiamo costruite male. Quindi adesso si interviene per migliorare, speriamo, anche perché, scusi, la questione di Renzo Piano, del rammendo, che fine ha fatto? Perché a quel che abbiamo capito, in realtà questi progetti, tra questi progetti non ci sono quelli messi in piedi dal gruppo 124 e lo stipendio di senatore a vita di Renzo Piano devoluto ai giovani architetti che hanno fatto progetti da regalare ai comuni, però abbiamo capito male, non ci sono questi progetti in questa... Piano da un lato come sta mai? Facendo dei progetti insieme a un gruppo di ricercatori attraverso l'emolumento da senatore del senatore Renzo Piano, ma contemporaneamente Renzo Piano, diciamo, lancia la programmazione, e questo bando per le periferie è proprio frutto dell'attività di studio di Renzo Piano, che ha individuato nelle periferie quelle che lui chiama le città del futuro. Sono zone dove c'è un'energia positiva, sono però le zone del degrado dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Le abbiamo costruite male perché nel passato costruivamo... Sì, però scusi, allora io non ho capito, forse, scusi se la interrompo De Caro, non ho capito perché a noi risultava che invece i progetti che il gruppo di Renzo Piano stava regalando ai comuni per poi decidere liberamente se adottarli o non adottarli, questo era un altro partito, un altro discorso, però non fossero inseriti in questo elenco di questi primi 24 cantieri. Non fossero stati coinvolti progetti. E non si capiva il perché, perché se ne è parlato Renzo molto, Piano fu convocato a Palazzo Chigi da Renzi, eccetera. Renzo Piano sta facendo da un lato una operazione di progettazione specifica di alcune periferie, dall'altro lato però è la persona che ha lanciato l'idea di fare questo bando per le periferie. I progetti poi sono stati presentati dai singoli comuni, capoluoghi di provincia o dai capoluoghi di regione insieme all'area metropolitana. Ci sono comuni che hanno fatto domanda singolarmente e comuni come il comune di Bari che ha fatto una domanda insieme agli altri 40 comuni dell'area metropolitana di Bari, e noi abbiamo deciso di realizzare spazi per la socializzazione, quindi giardini, parchi, aree che vengono pedonalizzate, playground. Quindi in realtà dei progetti di Piano, cioè di Piano c'è il progetto generale di lanciare questo bando, però poi sì, in realtà non ci sono i progetti specifici della squadra di Renzo Piano. Progetti sono 120 progetti che sono stati presentati dalle comunità locali, certo, dai comuni e dalle aree metropolitane. Ovviamente seguendo, ognuno ha seguito un proprio percorso. A Napoli la demolizione delle vele, la realizzazione di un centro direzionale con la sede della città metropolitana nell'unica vela che resterà in piedi. Bologna ha presentato un progetto per riqualificare tutte le stazioni, per le zone periferiche vicino alle stazioni ferroviarie. L'area metropolitana di Bari ha fatto un progetto per 41 comuni per creare nelle aree di edilizia economica e popolare gli spazi di socializzazione e gli spazi per i servizi che non ci sono mai stati. Ma Roma I tempi, diciamo, si è detto apriranno i cantieri, possono partire i cantieri, sono cantieri che partono realmente. I tempi sono stretti perché entro 3 mesi dobbiamo presentare il progetto esecutivo. Adesso sì, abbiamo l'anticipo del 20% di quei 500 milioni di euro che ci servono per fare la progettazione esecutiva. Entro 3 mesi dobbiamo presentare la progettazione. Ci risentiamo tra 3 mesi, facciamo così, tanto siamo sempre in onda, lei è sempre presidente dell'ANCI. Senta, non le chiediamo niente perché c'è già stata una discreta copertura mediatica sul lancio della candidatura di Renzi, discreta dico con un eufemismo, però se lei vuole rilasciare una dichiarazione succinta, voterà alle primarie, voterà per il conterraneo emiliano, per Renzi o per il ministro Orlando? Io, come ho detto più volte, voterò per Renzi perché credo sia la persona che ha dimostrato grande determinazione e coraggio per cambiare le cose nel nostro paese. Dopodiché sono il presidente dell'ANCI e rappresento tutti i sindaci che provengono da più zone geografiche del nostro paese e hanno orientamenti politici diversi, però io da sindaco del Partito Democratico voterò per Renzi. Lei è già abbastanza giovane, però noi stamattina con i nostri ascoltatori giochiamo su questo. Visto che Berlusconi si è fatto fotografare da McDonald's in un McDonald's, no? È un chiaro tentativo di rifarsi un'immagine in senso così giovanilistico. La cosa più sciocca che ha fatto per sembrare più giovane, ce l'ha una cosa da raccontarci? Io lo faccio quasi quotidianamente, metto il jeans il maglioncino aderente, però diciamo dimentico di essere un po' sovrappeso, quindi diciamo, non faccio una bella figura. Grandissimo, tra l'altro anche lei è un altro che va a correre cercando di smaltire qualche chiletto di troppo. Domenica scorsa ho fatto la 10 chilometri, però sono arrivato vivo per miracolo, non correvo da 4 mesi. Anche lì ho voluto fare il giovane, ecco, con me su 1:10 ad arrivare al traguardo. Comunque, apprezziamo molto anche l'onestà in tutte queste risposte, quindi è candidato per vincere il nostro premio come prima risposta. Andiamo a casa del libro, per il tentativo di sembrare più giovane. Grazie, grazie mille, sindaco. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 8:38 minuti, di nuovo ben ritrovati ascoltatori. Andiamo con Enrico che ci chiama da Ferrara all'800 24 00 24. Ciao Enrico. Salve a tutti. Buongiorno. Vai. Niente, volevo portare la mia esperienza. Sì. Io ho cominciato a giocare a pallanano, volevo dire in campo sportivo, il fatto di essere vecchietti ma di continuare a credere di essere giovani. Di volersi sentire come Silvio Berlusconi a McDonald's, questo è il punto. Sì, siamo quasi uguali. Enrico e Silvio. E cos'è che fa Enrico? Io ho giocato negli anni 70, a fine anni 70 a pallanano fino al 96, poi ho avuto chiaramente a una certa età, mi sono fermato e poi con un gruppo di amici abbiamo cercato di ricostruire una squadra e due anni fa, anzi l'anno scorso, abbiamo vinto il campionato di Serie B e quest'anno lottiamo per cominciamo fra 2 settimane i playoff. Ma quanti anni c'hai, scusa Enrico, a questo punto? Io ne ho 51. Ma sì, ma io sono il più vecchio della covata, come si dice qui da noi. Ma avete rimesso in piedi la vecchia squadra, cioè come i Blues Brothers che rimettono insieme la banda, oppure tutta gente nuova? No, io gli ho promesso che se mi fanno giocare un minuto di Serie 1, poi lascio lì e non mi rompo più le scatole. Sono tutti ragazzi dai 23 ai 30 anni. Però Enrico, la squadra è giovane e forte, e lei ha l'esperienza, quindi. Sì. Mi sembra però in questo caso, Enrico, che insomma il tuo tentativo di sentirti più giovane non sia per niente maldestro o goffo, anzi funziona benissimo perché giochi, e quindi complimenti. Sì, che dire? Bisogna dirlo a mia moglie che non vuole mai, perché dice che vado a farmi vedere con dei bambini e potrebbero essere praticamente quasi tutti figli miei. Ma perché ha paura che vada in Serie A e dopo si occupa solo di veline, ovviamente. È per quello, Enrico, sì, non dare retta, grazie, buona giornata. Cercavo due tifosi per, se mi potete fare un augurio, si chiama Ferrara United la squadra, se magari potete dire forza Ferrara United, vi ringrazio. Forza Ferrara United, molto volentieri. Grazie. Vai Ferrara United, complimenti. Ci risentiamo dalla A1. Bravo. Bene. Salve. Pasquale da Catanzaro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, sì, io chiamo da Catanzaro, qui abbiamo problemi di periferia importanti, Viale Isonzo è una zona periferica che è stata paragonata addirittura a Scampia. Che verrà abbattuta Scampia. Cioè Scampia, sì. No, scusate. Non tutta. Verrà abbattuta Scampia, mi è scappata un attimo la mano. No, verranno abbattute le vele, due delle vele di Scampia. Esatto. Precisiamo, perché sennò Scampia... Io sono ingegnere, faccio urbanistica, sì, ma faccio anche politica nel circolo del Partito Democratico. Io credo che rispetto anche ai programmi che abbiamo provato a scrivere sulla città, abbiamo preso ad esempio i modelli di Renzo Piano. Ecco perché la mia telefonata. Probabilmente voi dal Presidente Lanci volevate sapere se la squadra che ha messo in mezzo Renzo Piano ha prodotto un modello per le periferie italiane, perché altrimenti poi i soldi nelle mani delle amministrazioni finiscono. E l'ha prodotto questo modello o no? Cose. Non lo so questo. È quello che abbiamo cercato di capire anche noi dal presidente dell'ANCI De Caro, e devo dire, dico solo questa cosa, che al momento la risposta è interlocutoria, perché di progetti concreti messi in piedi dal team di Renzo Piano in questo bando non ce ne sono, quindi questa è una risposta negativa. No, è proprio così, non è un'opinione, l'ha detto anche De Caro, è così, però lui dice Piano è l'ispiratore di questo bando. Io questo al momento non lo so, ma se l'ha detto De Caro ci credo, staremo a vedere. Enrico, intanto, sì. È stato chiamato probabilmente anche perché ha fatto un grande progetto nel Bronx, negli Stati Uniti, dove ha recuperato una zona degradata. Sì, no, ma anche perché lui è un fautore, Enrico, anche perché lui è Nicolò, Enrico, scusa, anche perché lui è un fautore, no, non è Enrico, chi è, l'ascoltatore è un altro, sì, Enrico, sto facendo un casino dietro monologo. Un altro monologo, Renzo Piano è l'ispiratore di un'architettura di questo tipo, no? Con un impatto limitato, sostenibile, il verde, le piste ciclabili, eccetera, eccetera. Quindi, però il timore è che possa essere anche una, come si dice, una foglia di fico messa lì. Staremo a vedere, al momento non facciamo processi alle intenzioni, vedremo se poi questi progetti seguiranno questa ispirazione, cioè di recupero proprio. Anche perché è una foglia di fico da 3,9 miliardi di euro, insomma. Caruccia, no? Esatto, caruccia. Esatto. 1, 2, 3, 4. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Allora, lavori più strani come quelli che sono toccati ad alcuni studenti che nel percorso di alternanza scuola-lavoro sono trovati a fare le cose più assurde, niente che somiglia a un apprendistato, ma cose tipo pulire i bagni o fare il volantinaggio. E niente, soprattutto che assomigli al proprio percorso di studi. Questo. Esatto, e allora questo è un si può fare tradito, forse un si sarebbe potuto fare meglio. Stiamo a vedere, intanto il sottosegretario dell'istruzione Toccafondi ha già detto abbiamo il dovere di intervenire, non invierò ispettori, ma questa è la denuncia che parte dagli studenti pugliesi coinvolti appunto in questi percorsi di scuola-lavoro che però non vanno. Vero Nicolò Ceci, coordinatore dell'Unione degli Studenti Puglia? Benvenuto. Sì, assolutamente. Noi, ciao a tutti. Ciao. Noi appunto stiamo portando avanti questa indagine appunto all'interno delle scuole pugliesi, tipo per capire qual è la situazione appunto reale. Scuola reale. Lavoro, sì. Senti, ci dici Niccolò quali sono le denunce più strane che vi sono arrivate, i lavori più diciamo meno in linea con quello che è il percorso immaginato. Ora poi se sono le aziende che se ne approfittano in alcuni casi, i titolari che fanno un po' i furbi, o se questo percorso alternanza scuola lavoro è stato concepito male, mancano i tutor che si occupano di mettere in piedi questi percorsi. Ora questo non lo sappiamo, magari lo capiremo anche grazie a te. Però le denunce che vi sono arrivate, quali sono? Le denunce più gravi sono appunto alcune di quelle che citavi, appunto rispetto ai volantinaggi addirittura per 12 ore, con appunto quelle aziende che addirittura costringono in alcuni casi gli studenti a diciamo non rispetto appunto neanche i diritti di base dei lavoratori, e quindi non permette ad esempio agli studenti di andare in bagno in alcuni casi più estremi, così come in generale il problema appunto di studenti che vengono mandati a fare appunto manovalanza gratuita sostanzialmente in attività che non sono assolutamente formative, come ad esempio mettere a posto i libri in biblioteca oppure appunto lavare i bagni all'interno dei ristoranti, all'interno appunto di luoghi di turismo e ristorazione. Lavare i bagni in un ristorante, ecco, non sa molto di alternanza scuola-lavoro. Dico solo una cosa veloce, poi faccio la pausa sul traffico, Niccolò, e torniamo con te. La questione del mettere a posto i libri in biblioteca mi fa venire in mente una cosa. La classica cosa che fai fare a uno che arriva lì e tu non sai neanche bene come utilizzarlo, no? Ma sì, metti a posto i libri in biblioteca oppure sistema il magazzino, perché forse forse non c'è una da parte dei tutor delle scuole o delle figure previste nel mondo aziendale. Nessuno che si mette lì sul serio a pensare come utilizzare intelligentemente questi ragazzi. Quindi uno arriva, chi gli fa pulire il bagno e chi dice mette a posto la biblioteca. In tutti e due i casi non ci siamo, capite bene. 800 24 00 24, naturalmente questi sono casi isolati, poi in altri casi non bene. È andata così. Torniamo tra un attimo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Sono i tuoi occhi che mi aiutano a ricordare che si può fare, ricominciare. Il primo passo poi si vedrà e poi si vedrà. Guardo i tuoi occhi che mi aiutano a ricordare che si può fare, ti porto al mare, facciamo il bagno, poi si vedrà e dopo si vedrà. Studenti dal terzo al quinto anno, 200 ore per il liceo, 400 ore per le scuole tecniche. Questo è l'impianto dell'alternanza scuola-lavoro. Si può fare meglio di così? Di questo ci domandiamo, che andare a pulire i bagni? Sì, io volevo chiederti una cosa, nel senso che quando abbiamo letto la notizia, ovviamente il fatto di lavorare 12 ore di fila come volantinatori ci sembra incredibile, anche perché è un chiaro abuso questo, quindi forse ci sembra quasi che venga insegnato che nel mondo del lavoro ci sono un sacco di abusi, perché 12 ore senza pausa non si può lavorare, né quando sei a scuola né quando si lavora. Però vorrei anche spezzare una lancia per il sottosegretario Toccafondi, che ha detto che in realtà il sistema in fase di rodaggio, e forse va anche ricordato che nell'anno scorso ci sono stati 720.000 posizioni in alternanza scuola-lavoro, e quindi lui dice ci sono alcune cose non sono andate. Lo dico perché mi sembra corretto ricordarlo, che non è che stiamo parlando di 500 persone alle quali trovare uno stage o uno stage che dirsi si voglia, ma 720.000 persone. Quindi la prima cosa che volevo chiedere è quant'è l'entità di queste denunce. Voi state facendo un'analisi, c'è una percentuale, capire, di casi, quante Nicolò. Persone sono profondamente scontente del lavoro che fanno, e poi in realtà se hai delle ricette, nel senso come si fa a collocare bene 720.000 persone trovando che ognuno faccia il lavoro che vorrebbe fare? Cioè troviamo un posto da ministro per Nicolò, in pratica. Esatto. Rispetto a questo, diciamo, noi da anni proviamo a rivendicare queste soluzioni che abbiamo già proposto al Ministero per queste, diciamo, dichiarazioni di Toccafondi, per quanto chiaramente noi ci auguriamo che stiano lavorando appunto per risolvere alcuni problemi gravissimi dell'alternanza. Comunque ad oggi non ci sono ancora arrivate risposte, e noi pensiamo che rispetto a questo appunto ci debba essere una presa di responsabilità da parte del Ministero, che appunto proprio avendo deciso di appunto aprire la strada a questi percorsi per così tanti studenti, appunto non possa esimersi dal dovere poi di tutelare quegli studenti, di garantire poi. Ma dovrebbe mandare gli ispettori? Secondo te dovrebbe mandare gli ispettori? Perché lui ha detto, no, io secondo noi appunto non dovrebbe mandare gli ispettori, ma dovrebbe innanzitutto porre dei paletti alle aziende, a quali aziende possono fare formazione, perché ad oggi ad esempio il registro nazionale non è obbligatorio, quello in cui appunto sono registrate le aziende che appunto possono fare formazione con determinati criteri. D'altro campo non esiste uno statuto degli studenti all'interno dei luoghi dell'alternanza. E questo so che voi state anche lavorando alla creazione di questo statuto, però ti voglio chiedere Nicolò, perché ci sono delle figure che sono immaginate proprio per coordinare questi percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono i tutor all'interno delle scuole, poi figure invece legate al mondo delle aziende. Sono sufficienti? Io so che per esempio in alcune scuole, in molte scuole, c'è un tutor per tutta la scuola. Se ci sono 2, 3, 400, 500 studenti, capite bene che il tempo che ogni tutor può dedicare a ognuno di loro è mezzo secondo. È mezzo secondo. È così? Sì, assolutamente. Sì, funziona proprio così. Infatti, ad esempio, il nostro statuto, noi chiediamo un tutor ogni 20-25 studenti, proprio per tutelare il fatto che ci sia appunto un docente che metta attenzione all'interno di questi percorsi formativi, tanto un tutor interno alla scuola quanto di tutor aziendali che poi seguono lo studente appunto all'interno di questo percorso, perché altrimenti capite bene appunto che si trasforma in un... Si trasforma il patto formativo, diventa un pacco, un vero e proprio pacco formativo. Scusa il gioco di parole, ma è proprio questo che viene da... C'è qualche caso invece positivo? Cioè, adesso non voglio farti fare la parte di chi racconta la versione positiva, però ecco la domanda di Carlo di prima, ma credo, no? Che ce ne siano tantissimi, ecco, la percentuale, sentiamo 4-5 critiche su 720.000. Beh sì, ci sono tanti casi, noi stiamo raccogliendo anche quelli proprio perché diciamo non vogliamo fare esclusivamente la critica, ma vogliamo anche proporre un certo tipo di alternanza che si fa appunto in alcuni luoghi del lavoro e in cui appunto sono anche le scuole prima di tutto a prendere l'impegno di appunto pensare questi percorsi assieme al privato piuttosto che appunto mandare gli studenti così in un luogo in cui non sanno neanche cosa faranno. E in questi percorsi appunto spesso si costruiscono con gli studenti stessi e appunto vengono pensati proprio con degli obiettivi formativi, quindi esistono e noi spingiamo affinché appunto si facciano questi tipi di percorsi. Il problema è che ad oggi non esistono alcun tipo di linee guida date alle scuole. Ma infatti secondo me è giusta questa cosa che stai dicendo, che è la questione del percorso, perché adesso dirò una cosa che forse può sembrare antipatica, ma qualcuno che ha fatto l'alberghiero, che si ritrova a pulire i bagni e giustamente se ne lamenta, io penso che uno potrebbe anche dire: ma secondo me se anche pulisci i bagni una volta e capisci che cosa vuol dire pulire i bagni, perché dopo magari farai il dirigente e dovrai mandare qualcuno a pulire i bagni, secondo me può anche essere un pezzo di formazione. Il problema è che non può essere che nei tuoi 20, 100 giorni che devi fare di formazione fai solo quello. Quindi se ci fosse un percorso, come stai dicendo tu, ci sta anche che una giornata è dedicata a pulire i bagni, ma una giornata, se no è sfruttamento. Semplicemente io ho bisogno di qualcuno che mi pulisca il bagno e vado a prendere uno studente. Questo non si può fare, sbaglio? No, sì, assolutamente. Poi penso che i percorsi di alternanza comunque debbano essere in qualche modo legati con il percorso formativo. Certo. Io credo che diciamo, comunque pulire i bagni non richiede diciamo conoscenze e competenze che la scuola ti dovrebbe offrire, ma diciamo un'attività che io penso no, poi si possa apprendere anche all'interno del mondo del lavoro senza alcun problema, e la scuola invece dovrebbe diciamo puntare su delle conoscenze e competenze un po' più qualificanti, no? Anche per diciamo dare valore. Sono d'accordo su questo, questa linea, perché in effetti uno dice almeno nelle intenzioni, almeno nella fase di formazione partiamo alti, poi se uno si ritroverà a pulire i gabinetti questo è possibile, fa parte del lavoro di molti, di tutti noi. Io stesso quando ho iniziato i primi lavoretti mi sono ritrovato certo, tutti a fare noi. Qualcosa, cioè, pulizie, cioè, però, io scaricavo dei camion ovviamente formativo. Poi dopo esatto. Allora 800 24 00 24, ascoltatori, ci troviamo dopo il giornale radio, cerchiamo le vostre storie quando avete fatto di tutto per sembrare più giovani. Noi Berlusconi a McDonald's, a tra poco. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, The Right Thing, senti cosa siamo andati a recuperare, un classico dei Simple Red, perché siamo in area, fa la cosa giusta. qua vicino, Carlo. Certo, come tutti gli anni, è bellissimo. Qua vicino alla Fiera di Milano, la lo fiera so degli stili di vita sostenibili del consumo critico dal 10, cioè da ieri, al 12 marzo, cioè fino a domani. Domani. Andare a visitare, ci sono tantissime presentazioni, innovazioni, tante cose interessanti. Quello di cui ci si occupa durante tutto l'anno, noi che sì, si vede in giro, sì. Noi ce ne occupiamo molto spesso, però tutti messi nello stesso posto per 3 giorni. È bello, insomma, l'anno scorso ci sono state 70.000 presenze di persone che sono andate, quindi 300 appuntamenti, 700 espositori. Noi qui abbiamo una delle eccellenze di quest'anno, una iniziativa molto molto interessante. Quella che meno ti aspetti, posso dirlo, scusami. Forse sì, forse quella sì. Che meno ti aspetti, perché uno si aspetta più di vedere del cibo, di vedere lo l'antizanzara stand dei vegani, ecologico, eccetera, esatto, eccetera. E invece noi abbiamo qui con noi il country manager per l'Italia di Fairphone, io sbaglierò tutte le pronunce in inglese perché non ce la posso fare. Lui però è italiano, Luigi Liparini. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto. Fairphone, specifichiamo questo nome, è uno smartphone, è un telefono fatto con materie prime, prodotto e commercializzato in una maniera nuova, etica. Sì, hai detto bene Alessio, noi siamo un'azienda che produce smartphone, nata nel 2013 grazie a una campagna di crowdfunding, e prima ancora di diventare azienda è nato come un movimento di awareness per il fenomeno dei conflict minerals in Repubblica Democratica del Congo. Mi stai usando tante espressioni in inglese, io beh, però è un country manager. Vivere in Olanda il conflict minerals è come i cantanti country, anche loro cantano in inglese, quindi è giusto. Allora, ho capito che ci sono conflitti nelle miniere, perché in effetti questo accade, le miniere non sono luoghi proprio propriamente diciamo simpatici spesso, però c'è anche non solo sono luoghi difficili dove lavorare, ma sono luoghi anche di guerra, no? Di sì. Guerra guerreggiata. Sì, in particolare in Repubblica Democratica del Congo, non so se avete mai sentito parlare di questo fenomeno dei conflict minerals, che riguarda 4 minerali, che sono l'oro, il tungsteno e il coltan nello stagno. Molto spesso queste miniere vengono gestite da gruppi armati che utilizzano i ricavati delle stazioni minerarie per finanziare le loro guerre. Ecco, certo. Non ci fa più molto piacere tutto ciò. E per dirlo molto chiaramente, correggimi se sbaglio, la maggior parte di questi minerali sono proprio quelli che servono per i telefonini, quindi che tutti sì. Noi abbiamo in tasca. Per quindi tu... in qualche modo ognuno di noi ha in tasca un telefonino che è collegato con la guerra nel Congo. Così la sto facendo un po' breve, però sì. Per aiutarti. Mamma mia. È una delle 4 aree su cui lavoriamo per portare impatto sociale. Produzione sì. Smartphone e molte aziende hanno deciso per questa ragione andare via dalla Repubblica Democratica del Congo, e il problema è che 1/3 del PIL di questa nazione viene da questo settore, dal mining, quindi andando via le persone hanno difficoltà a trovare lavoro e rischiano ancora più di cadere nell'arruolarsi nelle milizie. Noi abbiamo deciso di stare lì, ma di lavorare solo con delle miniere di cooperatori, quindi dei piccoli imprenditori che si sono messi assieme. Inoltre nel 2015 abbiamo vinto l'UN Global Compact e con le Nazioni Unite vengono monitorate le strade che dalle miniere portano ai porti i minerali. Anche perché noi sappiamo, ce l'ha insegnato Rossano Ercolini, il nostro maestro di Capanri, premio di uomo ambientale dell'anno nel 2013, ricevuto dalle mani di Barack Obama, niente proprio di meno che ogni 3 cellulari c'è 1 grammo d'oro. Esatto. Al che uno dice, cavolo, ma non sapevo che, ecco perché poi lo pago una fortuna. E noi però siamo è interessante stati... vederlo dall'altro punto di vista, nel sì, senso sì. Che il grammo d'oro, giustamente uno dice, oddio, ah che bello, c'ho 1 grammo d'oro in tasca. Invece il fatto che un telefonino si parte andando a scegliersi quella miniera lì, dei cooperanti, dove c'è una e io parto da lì, costruisco un telefonino, è la storia bella che vi stiamo raccontando. Sì, e in particolare per loro noi siamo stati la prima azienda al mondo a inserire in un prodotto elettronico oro certificato Fair Trade, che questa volta non viene dall'Africa ma viene dalla miniera Fair Trade del Perù, e ora insieme alla World Fair Trade Organization stiamo partecipando a un programma di Horizon 2020, fondo europeo, per portare il movimento Fair Trade del mining in Perù in Africa. con una cosa che non è mai stata fatta. Adesso Luigi Lipparini, country manager per l'Italia di Fairphone, mi ricomponi lo smartphone durante il traffico, perché io volevo dirti fammelo vedere, fammelo toccare, non crediate che sia un telefonino di legno, no assolutamente no, fichissimo come tutti gli altri smartphone. Adesso guarda, in tempo reale lo sta rimontando, però spiego perché lo sta rimontando, perché la cosa che ci ha appena spiegato è che si smonta in un attimo, perché l'altra idea di questo telefonino è che tu in realtà puoi cambiare lo schermo in 30 secondi, puoi cambiare la batteria in 10 secondi. Questo che cosa significa? Che se ti si scarica la batteria completamente o se ti si rompe lo schermo, non devi fare come facciamo la maggior parte di noi, cioè butti il telefono, ne compri uno nuovo, che è una follia esatto, ma loro vendono i pezzi di ricambio, come anche altre case vendono i pezzi di ricambio, non però so se... ce l'ha mostrato qua in 30 secondi. Non so se ci hai messo di più tu a dirlo o lui a farlo, di sicuro io a dirlo, che l'ha già rimontato, l'ha già rimontato. No. Adesso ci prepariamo dopo il traffico, così ce lo fai anche provare, ce lo fai toccare, perché in effetti ha l'impressione, è uno smartphone come tutti gli altri, Fairphone, ma è invece completamente diverso. Traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare... E allora eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo se volete riprendere il filo delle cose di cui abbiamo parlato in apertura di programma stamattina, cioè siamo partiti dentro dai progetti per le periferie italiane con gli stanziamenti del governo Gentiloni, abbiamo parlato con il presidente Lanci De Caro, buone notizie, l'alternanza scuola-lavoro con la denuncia degli studenti pugliesi, pulire i gabinetti, ore e ore di volantinaggio, poco hanno a che fare con i percorsi formativi, quindi questa è la denuncia di stamattina, 800 24 00 24. Però stiamo parlando con il manager per l'Italia di Fairphone, una azienda olandese, vero? Nata in Olanda, sì, mi sembra, forse l'hai già detto, che produce uno smartphone con materiali e metodi di produzione etici, che non hanno a che fare con le miniere dove ci sono gruppi armati, che non hanno a che fare con aziende dove si sfruttano in malo modo i lavoratori. Uno smartphone smontabile, rimontabile, i pezzi li puoi cambiare, uno smartphone amico dell'economia circolare. Adesso però spazio alle domande concrete, no? Perché abbiamo fatto un po' tipo di filosofia. Quanto costa, vuoi sapere? Quanto costa Luigi, esatto. Il telefono costa 533 euro. È preparatissimo, già anche con 533. Sì, è che noi infatti dobbiamo... siamo completamente trasparenti, un prezzo un po' atipico, di solito tutti i telefoni costano 99 o 599. 00. Noi però, cioè, vogliamo spiegare esattamente ogni euro del prodotto come va destinato poi a tutti i nostri programmi di sostenibilità in Africa, in Sud America o in Cina. E le prestazioni, diciamo, di questo telefono per 533 euro sono simili, paragonabili a quelle di, non so cosa bisogna dire, salto un iPhone, in alto, salto in lungo, un Galaxy, un Samsung S6, possiamo dire. E il sistema operativo è Android, lo sta smontando, sì, lo sta il sistema operativo è Android ed è il primo telefono modulare al mondo. E perché abbiamo scelto un design modulare? Per due ragioni. Uno è il punto di vista ambientale, perché se rompi un telefono, invece che dover cambiare tutto il device, puoi cambiare il pezzettino che si è rotto. Facciamo un esempio, perché facciamo uno dice che cosa. Posso fare io, ecco, bravissimo, perché questo è l'esempio, secondo me, perché uno dice un pezzettino, magari può sembrare una cosa particolare, invece un grande classico, la fotocamera, cioè uno dice adesso ormai il mio telefonino fa delle foto bruttissime, se le metto su Instagram nessuno mi mette i like, ma uno dice fotocamera... ma vorrei una fotocamera migliore, cambio solo quella, giusto? Esattamente, vi dirò dai, in anticipazione, ragazzi, 24, che non è mai stato detto in Italia, quest'anno lanceremo una nuova fotocamera col doppio di megapixel, e questa è la prima volta nella storia dell'industria smartphone che un'azienda su uno stesso modello di prodotto lancia solamente un singolo modulo. È veramente l'esempio più preciso del mondo, perché qualunque altra casa avrebbe detto esce il telefonino col doppio dei pixel, devi comprarti il nuovo telefonino. Invece qui comprerai solo la fotocamera, te la rimonterai da solo, perché con un semplice cacciavitino la puoi fare, fa mia madre, possiamo fare tutti. Io mi alzo e me ne vado dopo questa notizia, perché è troppo forte, cioè basta, cambi solo la fotocamera. Quanto costa la fotocamera? 533 euro? No, la fotocamera sarà sugli 80 euro. Vabbè, capisci bene che è diverso, che è molto diverso. La differenza tra comprare un device intero nuovo è molto grande. Volevo dare due dati che mi sembra importanti, visto che stiamo parlando di telefonini, per i nostri ascoltatori. Beh sì, perché dal 2007 a oggi sono stati prodotti 7 miliardi di smartphone, e dentro il 2020 si prevede che le persone che ne possederanno uno saranno 6 miliardi. Ovviamente questi 7 miliardi sono stati prodotti, credo che adesso siano intorno ai 4 miliardi le persone che hanno un telefonino in tasca. Sì. Quindi stiamo parlando di numeri pazzeschi. No, se qualcuno si sta chiedendo se è una cosa di nicchia solamente per qualcuno che vuole fare quello molto, molto sano e molto giusto, questo è un problema che avremo tutti, perché non si può andare avanti con i telefonini che ogni 26 mesi, questa è la media di durata di un telefonino, viene buttato via. Però io adesso vi faccio sentire i malati, i feticisti in coda per l'iPhone, e dobbiamo trovare, Luigi Lipparini, una terapia di gruppo, una strategia insieme per curare queste persone. Sono un malato anch'io, però. Se avviso, mi autodenuncio. Sentite cosa. Sono stato fuori con gli altri, con le altre persone che erano in coda, chiacchierando, parlando, ho guardato film. Oramai sono 5 anni che sono fedele alla Apple, ogni anno sono qua a fare la fila per comprare il nuovo iPhone. E oramai è diventata un'abitudine. Io ho comprati tutti dal primo all'ultimo, quindi ogni anno siamo qua. Luigi Lipparini scuoteva la testa come Gasparri in studio quando parla Renzi. Che paragone. Cosa c'è che... Cioè, questi ragazzi qua bisogna trovare un modo per parlarci. A questi ragazzi io farei vedere le immagini delle discariche in Ghana, dove vengono mandati a morire gli smartphone che cambiano ogni anno, perché... Se non lo sappiamo, molto spesso le aziende mandano a riciclare, per modo di dire, i vecchi smartphone in paesi in via di sviluppo, dove però non c'è assolutamente l'infrastruttura adatta per riciclarli. Noi lavoriamo con delle NGO locali e recuperiamo questi telefoni, li mettiamo in dei container, paradosso li dobbiamo rispedire da dove provengono, quindi in Europa, perché in Africa non ci sono le infrastrutture per riciclarli in modo adeguato. E oltre a riciclare, cerchiamo di recuperare e riusare tutto il possibile. Ad esempio, se vedete, queste cover protettive sono fatte interamente con plastica riciclata. Non possiamo vedere perché siamo in radio, ovviamente, però... Voi due sì. Esattamente. No. Lo dicevo... È una bella cover azzurra. Perché... Tra l'altro, la cover si può stampare in 3D da solo a casa, esattamente, vero? Sì. C'è il softwareino, io me la posso fare a fiori, come mi pare. Cioè... Ti stai riallacciando a Temporelli, che ci spiegava, che ci spiegava che il futuro è che i pezzi di ricambio si stamperanno in 3D con le stampanti 3D di cui noi abbiamo parlato spesso. Sì, e poi la modularità consente ad esempio la personalizzazione anche della cover. Speriamo in futuro di poter consentire una personalizzazione maggiore anche altre componenti. Beh, questo però lo fanno un po' tutti i telefoni, le cover sì, personalizzabili. Sì, però non te la puoi cambiare, cioè questa è parte integrante del telefono, non è un accessorio. Chiedo scusa, infatti forse è sbagliato chiamarla cover, è il coperchio di chiusura che viene, che uno sostituisce, non è una cosa aggiuntiva che uno aggiunge al telefono. No, una custodia protettiva, infatti questo telefono lo puoi lanciare in testa a tutte le persone che vuoi e non si rompe, è uno dei telefoni più resistenti al mondo. Ma quanto durerà questo telefono? Per quanto è previsto che duri? È stato disegnato per durare 5 anni. Che già è più del doppio della media di qualunque telefono, che come dicevo prima è 26 mesi. Ah sì, esatto, 26 mesi? Quindi 2 anni e 2 mesi. Poi guardate, io lo... Ah, l'ha buttato così in terra. Avete sentito il rumore? Adesso faccio la prova anch'io, mi butto, vediamo. No, butta il tuo di telefono. No. A fa la cosa giusta anche oggi, tra l'altro avete un'altra presentazione, c'è ancora tempo oggi e domani per andare alla fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili a Milano, a pochi passi tra l'altro dallo studio di Milano Monterosa di Radio 24. Questa è una delle novità più interessanti, il Fairphone. Ma tu hai, prima che telefonino avevi, ce lo puoi dire? Facciamo una scoop. Io prima di conoscere Fairphone utilizzavo un prodotto dell'Apple che mi era stato regalato. Però io consiglio a tutti... Non dice il nome, il fantasio no... Cioè, usavo un iPhone, però io consiglio... Stavolta sei come Veltroni quando si candidò e non diceva il nome di Berlusconi, cioè il leader, il principale schieramento. Qui bisogna essere chiari. Io invito tutti, anche gli ascoltatori, a non cambiare il loro telefono per neanche comprarsi un Fairphone. Se volete sostenere la nostra community, venite a vedere i progetti che facciamo a fairphone.com. Però aspettate che il vostro telefono finisca il ciclo di vita. Se poi volete prendere un iPhone quando è finito... No, beh, questo è molto corretto, però non compratelo subito, ma aspettate che si e poi dopo compra, perché ma sennò quante persone hanno un Fairphone? Ma 120.000 in Europa. Adesso quindi potete essere, diciamo, fra i primi. Perché fa anche la sua figura. Dietro c'è scritto Fairphone, quindi in qualche modo stai comunicando al mondo. Perché in realtà prima sentivamo gli impallinati della Apple. Sì. Io anche ho un iPhone, quindi posso capire quel tipo di impallinamento. Però ho letto invece sulla questione del Fairphone, che volendo anche sul Fairphone si può creare una sorta di affezione di un altro tipo. Perché in qualche modo Fairphone diventa un simbolo, diventa un modo, tutte le volte che tiri fuori il telefono, per dire io ci tengo all'ecosostenibilità. È molto quindi figo. No, poi c'è non mi allontanerei cosa. Nemmeno dal fatto abbiamo che uno si può impallinare di Fairphone. Una community molto forte, pensate, abbiamo più di 10 gruppi Facebook nazionali e queste persone si ritrovano, vanno nelle scuole a fare formazione su quello che è il fenomeno del conflict minor. Però sappiate che è una community questa qua un po' particolare. Per esempio il telefono ti dice, mi dicevi prima Luigi Lipparini, da quanti minuti non lo stai usando? Sì, cioè un questo po' perché? Perché ti ricorda anche che l'uso che devi farne è un uso, sì, puoi farne un uso, cioè quando sei con una persona è meglio parlarci direttamente faccia a faccia. Se sei a cena con una persona e ti stai guardando Facebook vuol dire che ho qualche problemino, magari c'è, allora noi ti ricordiamo che forse è il caso di utilizzarlo un po' meno. L'ultima però volta che l'hai guardato tre minuti fa, due minuti fa. Però si entra nel mondo, esatto, dell'educazione, secondo me, insomma. Bisogna chi produce telefonini non lo so se debba anche educarmi all'uso, però va bene. Grazie a Luigi Lipparini. Grazie a voi. Di Fairphone Italia. 800 24 0024. Carlo? Niente, cioè adesso si deve rimontare il telefono perché è qua tutto sul tavolo operatorio straordinariamente aperto con tutti i pezzi in bella vista e mi sembra quasi di capire anche a me qualche cosa di questi transistor. Grazie, in bocca al lupo. Grazie per Fairphone, speriamo che abbia un futuro e un presente roseo. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina a Radio 24, e questa che abbiamo ascoltato è una canzone alla quale teniamo molto. Noi di solito qui è il momento dei Si può fare in musica e quindi sono pezzi che ci mandate voi, che ci consigliate voi. Questo ce lo siamo andati un po' a cercare perché questa canzone è Invece No di Rovina Riot ed è la canzone vincitrice della prima edizione del Festival di Sannolo del nostro Riccardo, esatto, Poli. Sannolo 2017, che è il festival semiserio della canzone, appunto, di Nolo, che è questo quartiere north of Loreto. La finale è stata ieri sera e noi in anteprima abbiamo la canzone e ne siamo contenti. È una roba un po' milanese, perdonateci, esatto, però insomma, c'è il festival di Sanremo, che è una cosa sanremese, è diventata, esatto, nazionale, e c'è il festival di San Nolo, che è una cosa di Nolo, che resterà Nolo. Che sogna, credo, di diventare nazionale. Aggiungo solamente una cosa, che comunque noi siamo sempre in cerca dei Si può fare in musica, quindi se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori, o anche semplicemente degli ascoltatori o delle persone che vanno al festival per esempio di Sannolo e riconoscete in una canzone precisamente il concetto di Si può fare e secondo voi è ben espresso, vi chiediamo di mandarcela, di inviarcela, così noi la faremo ascoltare. Potete inviarci i vostri pezzi e i vostri Si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, Facebook è Radio 24, no, chiedo scusa, Si può fare trattino Radio 24, oppure Twitter @SiPuoFare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il tuo non lo puoi dire perché oggi sei no, un giornalista. Oggi no, ma io sono ancora sotto shock per il smartphone smontato a pezzi, lanciato per terra, che rimbalza e che poi si rimonta, non da solo, ma si rimonta in 30 secondi. Esatto, troverete Fairphone, una foto anche sul nostro, sì, Facebook di Si può fare, perché abbiamo fatto una foto del telefonino completamente esploso. Ascoltatori, veniamo a voi. Luciano da Lucca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Chiamavo relativamente all'argomento di prima, cosa, sì, aver fatto per sentirsi giovani, sì, magari, esatto, con risultati all'opposto. Allora, come, io viaggio, come può essere successo a Silvio Berlusconi durante il suo pranzo a McDonald's, sì. Chiaro, tentativo di rifarsi un'immagine, chissà se c'è riuscito oppure no, ma insomma noi oggi vogliamo sollecitare su questo, perché è accaduto un po' a tutti, dai, diciamo. Sì, no, ma infatti, cioè, io premetto, senza voler fare il piacione, per lavoro sono spesso all'estero, pausa caffè con colleghe varie, premetto, senza voler fare... Sei sposato, Luciano? Velità, appunto per quello. Ecco. Senza nessuna velleità, però si fa per parlare argomento musica. Uh-huh. Quindi mi butto, dico, cavolo, l'argomento musica. Qua parte l'acchiappo con la musica. No, no, ma non era l'acchiappo. Momento simpatia, momento simpatia. Momento simpatia, no, per fare gruppo. Ah, a me piace, non mi ricordo se avevo detto i Coldplay o gli Oasis, collega accanto, lei mi dice, ah sì sì, riconosco. Piacciono moltissimo a mio padre. Cioè, che colpo basso, Luciano, bassissimo. E lì è andata così, cioè, quindi diciamo che fare brillante dal punto di vista essere giovane, in linea, e poi sono cose che capitano. Questo, diciamo, questo mezzo inciampo, hai tutta la nostra solidarietà e assolutamente ti inseriamo nella lista degli ascoltatori partecipanti oggi in questo strano elenco. Gianluca D'Ancona, buongiorno. Fra l'altro, Luciano, anche te, se vuoi rimanere in linea, perché tra poco col crowdfunding chiediamo agli ascoltatori di fare da giurati per i nostri progetti, la giuria popolare, i progetti che cercano il finanziamento dal basso. Gianluca D'Ancona, benvenuto anche a te. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, io volevo fare una critica importante per quanto riguarda la scuola-lavoro. Sì, l'alternanza scuola-lavoro, siamo partiti di là stamattina. Io sono un commercialista, spesso e volentieri ho le presidi, e anche per rispetto a loro io vedo questi ragazzi, però devo dire che così come è strutturata, sì, non è messa bene, perché è troppo breve nel tempo. Troppo breve il percorso di alternanza scuola-lavoro, non si fa in tempo. Troppo breve è anche sbagliato, perché non auguriamo di stare per tanto tempo a fare 12 ore di volantinaggio al giorno. Esatto, a cui è capitato, o altre cose simili. Però insomma, troppo breve, Gianluca. Volevo dire che io ho sempre fatto nei report finali, ma sono sempre stato di questo. Sì, ragazzi, se volevano lavorare, devono imparare il lavoro che comincia dalla gavetta in poi. Però un ragazzo che fa la terza superiore, quando arriva qui, spesso anche i miei dipendenti, c'è un ufficio di 8 segretari, dico, cosa gli facciamo fare a questo qui? E adesso mi trasporto quest'altro, intanto incomincio a vedere una fattura, sta cos'è uno scontrino fiscale. Gianluca, ti sentiamo male, però è interessante, però il tuo è molto intervento. Interessante. Perché voi vi siete trovati in quella posizione. Ti voglio fare una domanda: c'è qualcuno che vi aiuta a immaginare cosa far fare a questi studenti? C'è un tutor, un percorso, qualcuno che dice questo è il tipo di lavoro? Quindi in questo studio di commercialista queste sono le cose a far fare, oppure siete voi che dovete inventarvele? Sì, perché il difetto grosso che voglio lamentare è che la scuola non li forma per niente. No, ma al di là della formazione, che arrivano i ragazzi formati o non formati, questo è un altro giudizio. Io ti chiedo se nell'ideare, immaginare cosa far fare a il questi studenti fare nel tuo studio di commercialista siete soli a farlo, o se qualcuno vi aiuta concretamente, perché se uno se lo deve immaginare da solo può anche sbagliare e magari fa farlo. Io immagino da solo perché nessuno mi aiuta. Bravo, e questo non va bene. Questa è la risposta che volevamo. Gianluca, grazie. Resta in collegamento. Se vuoi anche tu, tra poco Crowd Me Up, la nostra rubrica del sabato mattina, tra poco. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E ora è il momento di Crowd Me Up. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Anche oggi siamo andati a spulciare sulla piattaforma Apple due progetti che cercano il nostro aiuto, il vostro aiuto, cari ascoltatori. Due progetti che meritano di essere sostenuti e li metteremo tra poco al giudizio della nostra giuria popolare. Una app per la scuola e un progetto di solidarietà per le aree colpite dal terremoto. Cominciamo col primo progetto. E allora, il primo progetto si chiama 3H36M, 3 ore e 36 minuti, Accumuli Amatrice nel cuore, è la campagna che prende il nome dall'orario del primo terremoto e nasce per dare un sostegno concreto alle imprese del territorio che sono state danneggiate dal sisma, hanno bisogno di un sostegno immediato. L'obiettivo minimo è raggiungere 12.000 euro. Il progetto è nato a Bergamo ed è promosso dal Rotary e Club 2042 o 2042. Ce ne parla Riccardo Gamba, l'ideatore della campagna. Benvenuto Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Riccardo, ho sbagliato il nome Rotary? No, va bene, Rotary Club 2042, va benissimo. Perfetto. Allora, abbiamo i nostri giurati che ci ascoltano, Luciano da Lucca, Gianluca d'Ancona, che abbiamo già conosciuto, Alessandro da Pisa, che conosceremo tra poco, Riccardo Gamba, spiegaci perché dobbiamo sostenere questo progetto. Allora, come è stato detto prima, sono socio di Rotary Club, il Rotary Club 2042 Italia, che è un club interamente digitale. Proprio per questo motivo, per questa nostra caratteristica, abbiamo deciso di fare una raccolta su Effela. Abbiamo deciso di fare questo perché i fondi che verranno raccolti verranno utilizzati per aiutare le piccole aziende di Amatrice che sono tutte familiari, che hanno subito veramente gravi perdite e fanno fatica a sopravvivere. Allora, spesso sui giornali si legge che i soliti problemi, i ritardi, eccetera, però ci si dimentica della popolazione e delle problematiche che queste stanno vivendo giorno per giorno. Questa raccolta è volta proprio a queste persone e attraverso e fargli permettere di recuperare la dignità di queste persone attraverso il lavoro. Quando ho deciso di lanciare questo crowdfunding, c'è il gong, è quasi finito il tempo. Però ti chiediamo come. Dici concretamente cosa vuol dire sostegno concreto alle imprese? Perché allora, noi in questa raccolta sostanzialmente raccoglieremo i fondi, come avevate detto voi, di 12.000 euro. Questi fondi verranno dati a un numero circa 6-7 aziende, piccole aziende, per non so, riparare il tetto della stalla o per esempio aiutare piccoli interventi per alcune aziende che sono state colpite dal terremoto. Benissimo Riccardo Gamba, grazie, resta collegato con noi naturalmente. Adesso è il momento di conoscere il secondo progetto. Secondo progetto è VicMath, è la piattaforma che trasforma i compiti di matematica in fantastiche avventure. VicMath è un'applicazione pensata come integrazione al libro di testo per aiutare gli studenti di scuola elementare e anche le medie a fare i compiti a casa senza sforzo e con ottimi risultati. Per sostenere lo sviluppo l'obiettivo da raggiungere è di 10.000 euro. Ce ne parla Valeria Maresca, responsabile di marketing di VicMath. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche a te Valeria, un minuto di tempo, poco più, per raccontare come e perché possiamo sostenere questo progetto VicMath. Allora, il perché è semplice. Ormai i ragazzi hanno bisogno di nuove metodologie di apprendimento e per questo motivo VicMath vuole far incontrare la matematica con Minecraft, oggi uno dei videogiochi più diffusi tra i ragazzi. L'approccio innovativo di VicMath sta proprio nell'inserire i quesiti di matematica del programma ministeriale in un contesto conosciuto come Minecraft. Se i ragazzi non rispondono correttamente ai quesiti, gli viene quindi preclusa la possibilità di svolgere determinate azioni all'interno del videogioco e questo innesca in loro una forte motivazione nel svolgere gli esercizi nel miglior modo possibile e quindi instilla in loro l'idea, il concetto di prima il dovere e poi il piacere. Diciamo che moltissimi alcuni ragazzi conoscono Minecraft e trascorrono soprattutto molto tempo davanti a questo videogioco, ma non tutti appunto conoscono ancora Vicmat, l'app che invece vuole migliorare la qualità del tempo speso davanti ai videogiochi. E in realtà, ad essere sinceri, noi siamo convinti che la matematica sia soltanto un primo tassello di un cambiamento che poi coinvolgerà tutte le materie, il sistema di apprendimento in generale, ecco. Valeria, benissimo, quasi nei tempi precisi, regolamentari, sei riuscita a spiegarci di che cosa si occupa VicMath. Ma il rischio quindi, semplice, ma capisce, il rischio quindi è che qualcuno dica smettila di giocare ai videogiochi, non è un videogioco, io in realtà sto facendo i compiti di matematica, è così? Sì, diciamo che loro possono appunto passare del tempo predeterminato sul videogioco e ovviamente loro involontariamente applicano delle conoscenze di matematica mentre giocano. Certo, va certo, bene, certo. Va bene, veniamo ai nostri giurati. Luciano da Lucca, che abbiamo già conosciuto, è l'ascoltatore che parlando di musica con ragazze più giovani di lui ha subito una cosciente delusione perché era la musica che ascoltavano i loro papà. Luciano, quale dei due progetti ti ha convinto di più? Allora, sicuramente il primo 3H36M, sì? Sì, l'ora del terremoto. Quello relativo al supporto per le popolazioni terremotate. Ok, per un motivo particolare? Ma io penso che sia un problema vivo, nel senso, lo leggiamo sui giornali, vediamo quello che è successo tutti e penso che poter fare qualcosa sia sempre utile. Beh, certo, certo. Immedesimarsi in quello che è successo a quelle persone fa venire brividi tutte le volte, quindi è verissimo, poter fare qualcosa... è verissimo. Allora, andiamo con un altro ascoltatore, un altro giurato, Gianluca d'Ancona. Quale dei due progetti il nostro commercialista sceglie? No, anch'io adesso, a parte il discorso emotivo del terremoto Patrice, quindi escludendo il discorso emotivo, anch'io il primo, per un senso emotivo, lo spirito del crowdfunding, in questo caso scavalca le banche, ci sono soldi diretti alle popolazioni, evitando burocrazie, più facilità. E va bene, quindi diciamo il crowdfunding che in qualche modo si sostituisce forse anche a chi i finanziamenti in genere alle aziende dovrebbe concederli. Andiamo con l'ultimo ascoltatore, Alessandro dalla provincia di Pisa, che magari sentiremo più tardi per il suo intervento. Alessandro, intanto, come giurato di Crowd Me Up, quale giudizio, quale delle due dei progetti ti ha convinto di più? Ma secondo me sarebbe meglio il secondo, perché bisognerebbe cercare anche di puntare ai giovani, perché i giovani sono il futuro, il nostro futuro. I giovani è la app per insegnare la matematica con un videogioco praticamente o con fantastiche avventure. Grazie Alessandro, resta in linea perché tra poco magari ti risentiamo. Carlo, quindi il nostro bilancio? Quindi 2-1 per 3H36M. E comunque, come diciamo sempre, non è che si vince, entrambi i progetti li trovate sulla piattaforma di Eppela. Assolutamente, noi ringraziamo Valeria Maresca di VicMath e Riccardo Gamba di 3H36M. Grazie per quello che fate, in bocca al lupo per i vostri progetti. Crowd Me Up torna sabato prossimo, ci fermiamo tra un attimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora abbiamo in linea il nostro giurato Alessandro della provincia di Pisa per fare il suo intervento. Devo dire che vince la solidarietà con i terremotati, ci mancherebbe altro, però VicMath è un progetto molto interessante. È poi, che noi non votiamo, perché anch'io avrei dato il voto a VicMath, però è giusto così, la giuria. Poi oggi parliamo di alternanza scuola-lavoro, quindi era più che mai pertinente. Alessandro, sì. Prego, su cosa volevi intervenire? Perché quella è l'alternanza scuola-videogioco. Esatto, perché i bambini, soprattutto per queste cose di ora, sono tutti fissati per questi videogiochi, apprenderebbero molto meglio. Certo. E secondo me sarebbe molto più giusto cercare di investire nei bambini, nei giovani, più che probabilmente. Va bene, però qua mi stai in qualche modo replicando il tuo intervento come giurato. Tu volevi aggiungere qualcosa? Avevi chiamato prima per toccare un altro argomento della trasmissione? Sì, per quanto riguarda il le cose che si fanno per sembrare giovani? I lavori che bisogna fare per quando uno parte all'inizio, che dicevano che qualcuno doveva anche era costretto a pulire i bagni. Sì. E bisogna farle queste cose, cioè, nel senso, bisogna essere un po' anche umili. E soprattutto la gavetta, bisogna fare la gavetta. Però Alessandro, un conto è fare la gavetta, giusto? Anch'io penso che bisogna partire dai lavori più umili, insomma, è istruttivo sicuramente, però esatto. In un percorso di alternanza scuola-lavoro nel quale i ragazzi dovrebbero quantomeno in partenza provare a mettere in pratica alcune cose che hanno imparato, pulire i gabinetti sembra abbastanza, uso un eufemismo, riduttivo. No, ma soprattutto è un'altra questione, quello che infatti dicevamo è se è inserito all'interno di un percorso, era quello che di cui parlavo molto precisamente, allora secondo me va benissimo anche partire da pulire i bagni, ma se tu invece vieni semplicemente sfruttato e quindi nei tuoi due mesi di lavoro fai semplicemente che pulisci i bagni, non impari un tubo. È un problema, cioè sì, il bagno è pulitissimo, ma soprattutto è un problema di sfruttamento di chi prende questi giovani invece che insegnargli come si fa il lavoro, li usa per il lavoro che loro hanno bisogno, è molto semplice. Sì, sono d'accordo, dovrebbero comunque metterli in un percorso e cercare di insegnargli l'umiltà e il lavoro. Il lavoro, certo. Che consiste anche nel fare i lavori umili. Va bene, chiaro Alessandro, l'umiltà si può insegnare, fa più parte forse dell'educazione, secondo me, che di un progetto di alternanza scuola-lavoro, ma tant'è, questo è dal tuo punto di vista. Sentite qua, a proposito di lavori, che cosa accade a Palermo. Allora, Shine My Shoes di Robbie Williams, che letteralmente sarebbe lucida le mie scarpe. Siamo a Palermo, dove fai brillare le mie scarpe, dove Shoeshine 2.0 è un progetto che ha l'obiettivo di formare e inserire nel mondo del lavoro 16 Shusha. Nuovi Shusha, un lavoro che evidentemente resiste, ha un presente, forse ha anche un futuro, probabilmente in alberghi di lusso, negli aeroporti, nelle stazioni, non lo so, lo chiediamo a Piero Caccamo, che lui sì, che fa il calzolaio di Palermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ed è uno dei formatori di questo progetto Shoeshine 2.0 di Confartigianato Palermo, che, sorpresa però, ha ricevuto una marea di adesioni. Sì, esattamente. Abbiamo fatto una forma di curriculum, abbiamo chiesto, il progetto è nato dal presidente della Confartigianato Nunzio Riina e di conseguenza poi abbiamo avuto delle parecchie adesioni. Nella prima tranche ne abbiamo avuto una settantina e abbiamo selezionato i 16 pretendenti. Ok, quindi 16 su 70. Beh, insomma, altri curriculum, sì, che abbiamo dovuto non avete potuto neanche accettare. In settimana l'Istat ha detto che sono aumentati gli occupati in Italia più 300.000 nel 2016. Ci sono dentro anche questi 16, non vuoi lo dire? So, un dato positivo sicuramente, però ecco, pensare che c'è tutta questa coda per fare lustra scarpe a Palermo non fa pensare benissimo, Piero, perché in passato non sarebbe stato così, forse. No, sicuramente in passato non era così e non sarebbe stato così. Si sono presentati parecchie persone, il livello è alto di persone laureate, diplomate. Ci sono laureati? Questo infatti che ci chiedevamo. C'è un laureato in scienze politiche, abbiamo visto un odontotecnico, un ex agente pubblicitario, due padri di famiglia. L'odontotecnico mentre ti lustra le scarpe e poi ti dice anche, guarda, secondo me quell'otturazione lì... Possiamo fare un'otturazione. Dovresti rivederla. No, diciamo che si sono presentati persone... delle persone che hanno bisogno di lavorare e che hanno voglia di lavorare, tra l'altro. Ma questo lavoro, no? Questo lavoro di Shusha, Piero, è un lavoro che ti danno delle mance anche generose. Tu dove lo fai? No, io nasco come negozio di calzolaio. Come calzolaio. Quindi... cioè il Siuciane sarebbe poi un appendice del mio lavoro, e noi lo facciamo nell'ambito del negozio. Quello invece dovrebbe essere fatto su strada, quindi ci saranno delle postazioni a Palermo. E dove andrebbero messe queste dove sono già? Saranno messi intanto sicuramente nel centro storico, ancora a definire, però che sono Piazza Verdi, Piazza Politiama, Via Libertà, sono il centro storico di Palermo. È un'iniziativa anche un po', come dire, nostalgica, un po' per un po' vintage, no? Per riesumare anche una vecchia abitudine. Sicuramente sì, però è da andarlo a rivedere in maniera innovativa. Moderna, 2.0. Ma loro avranno un piccolo stipendio, oppure in realtà è semplicemente che, come gli ambulanti, a seconda dei clienti, che i quali pagano, giusto? Sì, esattamente. Noi come Confartigianato stiamo aiutando questo progetto, tutto in forma gratuita. Io che faccio il corso, chi si sta interessando di formare la cooperativa, perché stanno formando una cooperativa, certo, per avere delle agevolazioni fiscali, ma poi saranno del tutto autonomi. Io porto le Clark, ma le Clark si possono lustrare? No. Sì, possono lustrare, però si possono pulire. Abbiamo anche un metodo per pulire le scarpe di camorra. Con la gommina quella ad hoc, vero? Sì. Con la gommina abbiamo delle schiume a secco che nell'intervallo di quei 10 minuti, un quarto d'ora che il cliente si siederà in questa posizione. Sta andando via la linea, tra l'altro siamo in chiusura, grazie al nostro calzolaio di Palermo, Piero Caccamo. Grazie mille. E questa era la notizia, corsi per Sciuscià, tantissime adesioni. Noi ci risentiamo domani alle 8.30 fino alle 10. Ciao. Ciao. Ciao. Anche la Caro Gabardini. Ciao.